E come preannunciato siamo in collegamento con Montecitorio, dove lavoratori e lavoratrici della San Galli Vetro. Manfredonia, sì, mi senti? Sì, dicevo, stavo dicendo che siamo in collegamento con Montecitorio, dove i lavoratori e le lavoratrici di San Galli Vetro stanno protestando. Vuoi spiegarci un po' perché siete lì? Sì, intanto buongiorno. È un pezzetto che siamo arrivati qui sotto Montecitorio, stiamo importunando, come si dice, un po' di deputati che sono passati, è passato Fitto, è passato Gasparri, stanno per arrivare ancora altre situazioni. Adesso ti passo uno dei promotori ovviamente di questa iniziativa, che sono arrivati direttamente stamattina, sono partiti stanotte da Manfredonia, è un'annosa vertenza di quelle che ce ne sono ormai in Italia centinaia se non migliaia. E questa è una prima tappa qui sotto Montecitorio, perché poi nel pomeriggio si trasferiranno al MISE, cioè al Ministero delle Attività Produttive, perché lì c'è un tavolo ovviamente per poter affrontare questa vertenza. Ma adesso te ne spiega meglio i contorni Tommaso, che è uno degli organizzatori di questa iniziativa. Ok, ti ringrazio. Buongiorno, sono Tommaso. Buongiorno. Insomma, salve. Se ci vuoi spiegare. Senta, un po'... cerco di riassumerla, sì, brevemente, la nostra vertenza. Noi siamo un'azienda aperta con il 70% di fondi pubblici a fondo perduto versati dallo Stato nella provincia di Foggia, Manfredonia. L'imprenditore Giorgio Sangalli non fa l'imprenditore di mestiere, fa l'evasore fiscale, in quanto già accusato e beccato nella lista Pessina per soldi che sono andati in Svizzera, e in più in 15 anni ha aperto e chiuso qui circa 5-6 fabbriche, tutte aperte con soldi pubblici, puntualmente mandate in crisi, riempite di debiti, portate in liquidazione, smontate pezzo per pezzo, alla fine si è messo soldi in tasca puliti, gli sono rimasti capannoni. Dopo aver aperto noi, in piena crisi produttiva, ha riaperto un altro stabilimento gemello in Friuli Venezia Giulia. Questo stabilimento era partito per produrre un prodotto diverso dal nostro, in modo da non farci concorrenza, cosa che non è stata, perché dopo circa un anno ha preso il nostro stesso prodotto, ci ha rubato tutti i clienti, e il dottor Sangalli, l'imprenditore, ha riempito di debiti la nostra fabbrica, oltretutto leader in Italia, in quanto avevamo il 35% del mercato italiano di vetro, avevamo un prodotto di eccellenza, non esistevano pari in Italia e non esiste sito produttivo con le stesse nostre lavorazioni, ci ha riempito di debiti, visto che l'altro stabilimento era più giovane, ha chiuso il nostro e stava cercando di andare avanti con quello, cosa che non è stata perché il concordato liquidatorio presentato è stato bocciato dai creditori ed è stato dichiarato il fallimento dal tribunale. Qui c'è un'altra fregatura, in quanto i commissari giudiziari impegnati nel concordato è stato nominato lo stesso commissario giudiziario come curatore fallimentare, ed è da dire che il commissario giudiziario è stato nominato da Sangalli per curare gli interessi della sua fabbrica. Quindi noi non ci aspettiamo minimamente che lui curi gli interessi degli operai, lui continuerà a servire Sangalli. Oltretutto il giudice della sezione fallimentare di Udine, che sta seguendo il caso, è lo stesso giudice che ha assolto Sangalli dalla lista Pessina, che l'aveva condannato prima a 6 mesi di reclusione, pena convertita in una multa, oltretutto pagata dai fondi della società Manfredonia Vetro. Detta così in maniera veloce. Va bene, e visto appunto la situazione piuttosto complicata, voi cosa state cercando di mettere in atto a livello appunto di protesta e di vertenza? La sento bassissima, mi scusi. Dicevo, cosa state mettendo in atto per contrastare appunto questi, insomma, questo... Sì, la cosa che noi vediamo è una fabbrica pubblica, aperta con soldi pubblici, non vedo perché, anziché pagarne solo ed esclusivamente l'imprenditore, dobbiamo essere noi a pagare, quando il mercato c'è, nel mercato di vetro italiano si importa vetro dall'estero, infatti a Piombino sono stati aperti dei magazzini dove si importa vetro dall'Algeria. Purtroppo lo stabilimento gemello che è stato aperto da Sangalli su, che oggi ha pure perso, in quanto aperto con i soldi della regione Friuli, non potendo accedere ai soldi ottenuti dalla liquidazione di Manfredonia, gli è stato tolto, quindi adesso è sotto la gestione della regione Friuli, ma la regione Friuli quello stabilimento se lo deve togliere perché è un buco in testa, la sta mandando in perdita, e sta facendo di tutto per non farci ripartire, altrimenti quello stabilimento non verrà mai venduto. Infatti c'è una proposta d'acquisto per quello stabilimento vincolata alla non ripartenza dello stabilimento di Manfredonia. Inoltre quello stabilimento non sarà venduto ad 80 milioni, che è il debito che grava su quello stabilimento, ma sarà venduto a 0 euro, in quanto la regione Friuli rinuncia alla sua parte di capitale pur di toglierselo dalle spalle, e la banca azionista di maggioranza di quell'azienda, che è Mediocredito, rinuncia agli altri 40 milioni che avevano investito in quella fabbrica. Ok, io dicevo, però a livello di protesta voi cosa state mettendo in atto? Allora, la nostra protesta è che il governo intervenga in una situazione dove sono stati spesi soldi pubblici, una realtà produttiva che può lavorare, ci lavorano 400 famiglie in una zona già desertificata come il Mezzogiorno, dove c'è stato il più grosso investimento di soldi per il contratto d'aria degli ultimi anni nel Mezzogiorno. Noi chiediamo al governo che questa realtà produttiva non venga fermata. Okay. Che intervenga in qualche modo affinché si riavvii, e non ne servono tantissimi di soldi. Non sì, però non dico, la mobilitazione come l'altro stabilimento. Cosa state facendo? Oltre a essere oggi a Piazza Montecitorio, cosa farete nei prossimi giorni per portare avanti queste istanze? Allora, nei prossimi giorni dipende da come andrà la giornata di oggi. La giornata di oggi l'ha già descritta Vincenzo, faremo un piccolo corteo da qui, da Montecitorio, fino a Piazza Barberini, alle spalle del Mise, e lì sosterremo fin quando non si sarà conclusa il vertice, dove è presente la Regione Puglia, tutti e tre i commissari giudiziari delle aziende che Sangalli ha mandato in fallimento, i sindaci dei tre comuni, delle persone che lavorano allo stabilimento di Manfredonia e le parti sindacali. Ok, non so se vuoi aggiungere qualcosa o dare contatti eventualmente, o invitare anche semplicemente a raggiungervi. Allora, il messaggio che voglio dare è che noi non permetteremo mai che da quell'azienda esca un solo bullone. Qualsiasi cosa c'è in quell'azienda appartiene a noi, e noi vogliamo che il governo si adoperi affinché venga trovato un investitore valido, e ce ne sono due manifestazioni di interessi che stanno tenendo ben nascoste, in quanto non stanno fornendo dati necessari affinché l'operazione venga fatta, perché devono prima risolvere la questione della Friuli Venezia Giulia. Sa bene meglio di me che la Friuli Venezia Giulia, il presidente Deborah Serracchiani, il braccio destro di Matteo Renzi, quindi se dobbiamo fare un braccio di ferro tra politica della Puglia e politica della Regione Friuli, vince quella della Regione Friuli. Noi non ne vogliamo pagare, non vogliamo proprio entrare in merito a questo. Noi abbiamo diritto di lavoro, il lavoro ce l'abbiamo e lo vogliamo, e pretendiamo che il governo si muova in questo senso. Perfetto, è stato chiarissimo. Va bene, quindi mi scusi la carrellata, però qui ci sarebbe da scrivere un libro. Tante no, cose perché non era molto complicata comunque la questione, quindi giustamente insomma c'è stato un report accurato della stessa. Io vi lascio appunto al vostro presidio, quindi al corteo che farete, e insomma vi saluto. Soprattutto le persone ci lavorano da 9 mesi senza percepire stipendio, e il curatore fallimentare ha accantonato su un fondo vincolato non incluso nel concordato 160.000 euro per garantirsi i loro compensi. C'è cosa che non sta né in cielo né in terra, perché da che mondo è mondo, un giudice fallimentare la prima cosa che paga sono gli operai che prestano ancora attività lavorativa in quella fabbrica, perché non è ferma, è stata messa in stand by, ci girano ancora delle persone perché ci sono dei macchinari ancora accesi, e nonostante tutto queste persone non godono né di cassa integrazioni né di salario, ma puntualmente 24 ore su 24 il turno è coperto, compresi sabato, domenica e festivi, ed è una cosa proprio che secondo noi la legge italiana non dovrebbe permettere. 9 mesi, qui non si parla di 1 o 2 mesi, 9 mesi le persone stanno prestando lavoro, e la risposta del curatore fallimentare alla nostra domanda di essere pagati è stata: se non vi sta bene licenziatevi per giusta causa. No, effettivamente danno anche la beffa. Esatto. E purtroppo effettivamente il mondo del lavoro sta andando molto verso il lavoro gratuito, evidentemente anche questo. Lo so, ma non si vive gratuitamente. No, certo che non si vive gratuitamente, infatti non è assolutamente una cosa praticabile né giustificabile in nessun senso. E dopodiché, appunto, io vi lascerei al corteo, e quindi al presidio a Montecitorio prima dello stesso, e vi auguro insomma buona lotta per quanto riguarda appunto la vostra Grazie. Vertenza.